I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La cosa più sorprendente che riguarda il nostro paese all'interno del rapporto che l'OCSE ha diffuso ieri sulle disuguaglianze dei paesi membri non riguarda tanto o soprattutto il fatto che la crisi abbia colpito più le fasce più deboli di quanto non abbia fatto sulle fasce più ricche. Certo, fa impressione notare come dal 2007 al 2011 la perdita di reddito disponibile per la parte più povera della popolazione sia stata del 4%, mentre per la parte più ricca, il 10% della popolazione italiana, il calo del reddito disponibile sia stato solo dell'1%. Fa anche impressione leggere che in Italia l'aumento della povertà durante il periodo della crisi è stato tra i più elevati nei paesi dell'OCSE e che ha colpito soprattutto i minori di 18 anni. Ma in realtà a sorprendere ancor più di questi due elementi è un altro dato, è il cosiddetto indice Gini, quello che misura le disuguaglianze all'interno di un corpo e di un tessuto sociale. E l'indice Gini è aumentato, ossia la disuguaglianza tra il 10% più ricco e il resto della popolazione è cresciuta anche durante gli anni di crisi. Certo, uno potrebbe notare che il nostro indice Gini è ancora più basso, quindi meno diseguale rispetto a Gran Bretagna e Stati Uniti. E qui però si colloca la particolarità tutta italiana. Abbiamo una pressione fiscale e un'intermediazione dello Stato simile a quella di paesi come la Germania, la Francia e il Nord Europa, che però grazie a questa pressione fiscale e grazie al ruolo dello Stato riescono ad avere anche un tasso di disuguaglianza molto più basso. Come dire, le tasse alla francese e la disuguaglianza all'americana. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'Europa batta un colpo, un vero colpo politico, altrimenti i miglioramenti dell'economia non basteranno. È la sintesi di quanto ha detto oggi il presidente della BCE Mario Draghi, che da mesi, per la verità, è impegnato a persuadere i governi dell'Eurozona e le opinioni pubbliche dei paesi europei ad andare avanti su una strada comune delle riforme strutturali. Draghi, entro i limiti stretti del suo mandato, fa politica, crede in un'Europa unita vera, ha partecipato attivamente alla creazione dell'euro e alla corsa dell'Italia verso la moneta unica e vede da tempo l'urgenza della cessione di sovranità da parte dei paesi dell'Eurozona verso il superiore livello europeo. E proprio per questo ha suggerito, anche oggi, la creazione di un organismo di coordinamento continentale delle riforme, in modo che i paesi dell'Unione possano convergere verso obiettivi comuni negli stessi tempi e magari con modalità simili. Sarebbe una forma embrionale di unione fiscale, l'altra metà di Europa che ancora manca dopo quella dell'unione monetaria, appunto nata con l'euro. Per fare questo, però, come dimostra un recente libro curato da Carlo Cottarelli per il Fondo Monetario Internazionale, proprio sui modelli di unioni fiscali, occorrerebbe superare uno spread che dice molto, è quello che definisce la distribuzione delle risorse tra il livello centrale e federale e i singoli livelli decentrati di governo. Nei 13 sistemi di unioni fiscali presenti nel mondo, la quota di risorse destinate a livello centrale è del 50-60% e copre fino al 30% del PIL. Per l'Europa, invece, le risorse bilancio UE sono l'1% del PIL continentale e coprono a malapena il 2% della spesa complessiva. Eccolo lo spread, che all'apparenza è incolmabile, ma indica una strada da percorrere se l'Europa vorrà restare, come dice Habermas, il passo più avanzato nella storia umana lungo la strada di una società mondiale politicamente costituita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.